9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 24 di giugno. Oggi l'interrogativo è la natività del Giovanni Battista, quindi uno dei santi che più dividono per la sua capacità di annuncio. È uno di quelli che dividono, esattamente come annunciava la missione di Giovanni Battista. Dividono perché su questo caso Bisignani P4, in cui da giorni io me ne sono stato discosto, perché volevo capire, a dire la verità, non il fondo della vicenda, su cui poi vi darò il mio giudizio, ma volevo un pochino capire come si mettevano le cose. E ora che mi pare ben stratificato nell'ennesima metavicenda italiana, metavicenda perché come al solito è più e insieme meno di quanto vuole apparire, e però esercita profondi impatti nell'immagine che l'opinione pubblica ha del potere, di questi anni di governo, di questa compagine di governo, di ciò che c'è dentro sopra sotto, e contemporaneamente dice meno di quello che davvero un paese avrebbe bisogno. Ora che mi sembra tutto cristallizzato, lo pongo esplicitamente l'interrogativo, e lo pongo grazie a ospiti che hanno idee diverse, e invitando voi tutti a dirci come la pensate su questo P4 e sulla vicenda che ruota intorno a Luigi Bisignani e a ex magistrati politici come Papa. Chiamate al numero verde 800 24 0024, il numero dei messaggi è 349 238 6666. Pongo brevemente l'interrogativo. Che cos'è questo caso Bisignani per voi? È l'ennesima conferma, grazie a un'inchiesta giudiziaria di cui ciò che conta a quel punto è più ciò che ci svela di ciò che sia fondato o meno codice alla mano, ma l'ennesima conferma di ciò che in questi anni è stato il governo di questo paese, un governo debole e fragile nell'apparenza, ma nella realtà poi espressione di contatti, connivenze, lobby, amici degli amici, appalti dalla RAI a dovunque altro, a qualunque ministero, governati da qualche cosa di invisibile, esattamente come su Repubblica, sul Fatto viene presentata questa vicenda in cui il lobbista Luigi Bisignani diventa una specie di grande burattinaio, non dico sovraordinato, ma una specie di occulto difensore di Berlusconi, che con tutti i ministri da Frattini alla Gelmini alla Prestigiacomo tratta con grandissima intimità e familiarità, si preoccupa degli errori di Berlusconi, tenta di evitare le cose confini, e poi mercanteggia, trama, colpisce, minaccia, ricatta, insomma questo. Oppure, come sostiene chi invece è molto critico, è l'ennesima conferma che grazie a delle intercettazioni attivate con disinvoltura da parte della magistratura, mentre si sfarinano i capi d'accusa, perché l'associazione segreta intanto non c'è più, è il GIP che l'ha smontata, ma restano poi naturalmente fior di reati, ma reati minori rispetto alle accuse iniziali, ma comunque ciò che conta è avere 20.000 pagine di intercettazioni che sui giornali dati poi in pasto contribuiscono a demolire ciò che sarebbe stato sempre comunque demolito, poiché l'Italia è sempre così andata avanti, con la sola differenza che da anni assistiamo al fatto che le intercettazioni e le indagini avvengono solo rivolte a colpire gli ambienti, gli uomini politici, i lobbisti, i millantatori, i corruttori, i ricattatori, i prosseneti che stanno intorno al centrodestra, ma che sempre nella politica o nel potere italiano ci sarebbero stati e li avremmo visti con altrettanto schifo e scandalo, ove, qualora e se i magistrati intercettatori avessero rivolto le loro potenti antenne anche dall'altra parte. Come sempre l'Italia è spaccata in due. Devo dire la verità però che anno dopo anno diciamo gli intercettatori e chi dice basta con questo schifo acquistano vantaggio, perché questo si vede nei sondaggi, questo si vede nel voto delle urne, questo si vede nel sentimento degli italiani. Io partirei un po' da questo punto di vista, perché se avessero ragione i sostenitori del secondo fronte, è un fatto che hanno perso, comunque stanno perdendo, perché non hanno efficacemente contrastato questa tesi né con atti di legge coerenti né credibili soprattutto. Anzi, è proprio l'incredibilità del loro fronte che li ha costretti a farli arretrare sempre di più sotto il peso dell'attacco degli intercettatori a migliaia di pagine. E questo mi sembra un primo dato. Un secondo dato è, vogliamo dare proprio del tutto torto agli italiani che, senza entrare troppo nel merito, senza ricordarsi chi era Luigi Bisignani, la vicenda Enimont, eccetera, eccetera. Io me la ricordo, ero a Palazzo Chigi con Spadolini, quindi insomma ho un'idea chiara di che tipo di gente sia. Ma al di là di questo, senza che gli italiani debbano entrare troppo nel merito, vogliamo dare torto agli italiani che non vorrebbero proprio così apprendere che tra ministri col Presidente del Consiglio, tra capi di aziende pubbliche come la RAI, come l'ENI, eccetera, eccetera, si considera una specie di punto di riferimento così fondamentale un personaggio di questo genere? Ecco, vogliamo dar loro torto? No, io non do loro torto. E questo mi sembra un secondo punto acquisito. Terzo, quindi non riesco a dar troppo torto a chi dice, ma insomma, che schifo, perché questo è un paese che non riesce mai ad avere vicende, scelte pubbliche, governo pubblico che non sia sporcato da qualche cosa che inevitabilmente si sarà connesso al potere, ma che però in questi anni sembra peggiorare, non migliorare, dalla statura di chi comanda a chi sta intorno a lui. Certo, se tutto questo fosse poi l'effetto di un meccanismo di abile interpretazione dei poteri magistratuali per volgere sempre solo da una parte il pendolo della storia, se come scrive per esempio oggi Piero Stellino, il lobbismo non è reato, quindi colpi di reato e di indagine stanno un po' a pezzi perché di prova del reato non se ne vedono, e allora vuol dire che tutto questo accanimento testimonia solo che si vuole fare del giustizialismo travestito da moralità pubblica, e beh, in effetti ci sarebbe molto da preoccuparsi. Sentiamo come la pensano i nostri ospiti. Io mi limito a porre questi interrogativi e a dire che di sicuro però coloro che sostengono la seconda tesi mi sembrano in crescente difficoltà e in calante consenso politico, tant'è che anche questa volta non riusciranno a fare un atto di legge che rimetta ordine alle intercettazioni, e se non ci sono riusciti in questi anni è solo perché di volta in volta sembrava sempre che a farlo stavano più pensando a se stessi che a ristabilire un principio di ordine nell'ordinamento. Allora, gli ospiti. Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano, che da settimane batte con i suoi articoli il sentiero della PIP4. Ricordo il titolo di oggi del Fatto Quotidiano: Papa, i Rolex rubati, che fate? Lo arrestate? Il deputato PDL è intercettato e fotografato anche mentre mercanteggia orologi con un noto ricettatore. Ma la Camera fa melina sulla richiesta dei giudici. Buongiorno e grazie a Marco Lillo. Buongiorno a voi. Fabrizio Rondolino, giornalista, editorialista del Giornale, scrittore e curatore con Claudio Velardi del sito thefrontpage.it, e lo conosco, il soggetto attenzionato in questione, da quando andavamo lezione insieme. Buongiorno Rondolino. Buongiorno Oscar. Allora, cominciamo con l'accusa. Marco Lillo, che cos'è questa vicenda? Dunque, dal punto di vista penale c'è un giudice delle indagini preliminari che per ora ha riconosciuto che ci sono dei reati in questa vicenda, sono in particolare tre episodi di favoreggiamento e di rivelazione del segreto d'ufficio contestati a Pierluigi Bisignani, che sono, come sappiamo, a beneficio l'uno di Gianni Letta, il secondo di Mauro Masi, il terzo di Lorenzo Borgogni, numero due di Finmeccanica. Poi, e che contestualmente, ricordalo però, ha smontato anche... Volevo completare. E contestualmente appunto lo stesso GIP ha detto, secondo me invece non ci sono gli indizi gravi per mandare in galera Bisignani per l'associazione a delinquere, né quella semplice, perché ci sono due reati contestati, associazione a delinquere semplice, né per quella, diciamo così, col cappuccio, no? Quella della legge Anselmi. Ora, quindi abbiamo due PM, Curcio e Woodcock, che dicono una cosa, un GIP, che essendo giudice conta di più, da questo punto di vista che ne dice un'altra. Ora i PM faranno ricorso, penso oggi o domani, il tribunale, tribunale del riesame, si chiama, dovrà esprimersi. Quindi diciamo c'è un punto sospeso sull'esistenza di questa associazione a delinquere. Voglio dire però che dal punto di vista penale già oggi abbiamo due PM e un GIP che riconoscono l'esistenza di questi reati. Come funzionava la cosiddetta P3? Acquisiva notizie, talvolta anche in via illecita, mediante un carabiniere del ROS che aveva accesso alle banche dati di polizia, al cosiddetto SDI, poi spendeva questi segreti che acquisiva in questo modo o in altri modi, magari se c'era un'amica che andava a cena col vicepresidente del CSM e lo vedeva conversare con quattro ragazze, come dice lei, al telefono, scollacciate, che poi ovviamente non c'è nulla di male in questo, però se questa poteva essere un'informazione imbarazzante, poi invece il vicepresidente del CSM dice che non lo è, ma e poteva essere spesa, diciamo, sul tavolo del potere, perché come sappiamo l'informazione è potere, da un lato, oppure spesa, diciamo, sul fronte economico, quindi per chiedere soldi, come faceva invece, o per chiedere favori, per chiedere macchine, per chiedere vacanze, come faceva invece il deputato Alfonso Papa, altro membro di questa associazione. Queste sono diciamo le finalità. Devo dire che il PM contesta l'associazione ritenendo che i tre, diciamo, limitiamoci ai tre, poi in realtà erano quattro, che sono il carabiniere, il deputato Papa e il lobbista, chiamiamolo così, Bisignani, fossero un gruppo e agissero insieme. Perché il GIP la smonta l'associazione? Perché dice sì, è vero, questi in qualche modo usavano tutti quanti questi segreti, però li usavano per fini diversi, quindi per avere una situazione a delinquere ci deve essere uno scopo comune, quindi questi hanno fatto dei reati tutti quanti, ma per scopi diversi. Bisignani lo faceva per potere sostanzialmente e Papa lo faceva per andare in vacanza, per piazzare le sue amanti qui e là, per avere appartamenti dove metterle. Ecco, quindi insomma, non parliamo di una vicenda che è stata, come si dice, sui giornali tranquillamente smontata dalla magistratura, una vicenda che esiste, può avere due letture diverse, ma che viene ritenuta penalmente rilevante sia dal GIP sia dai PM, questo dal punto di vista proprio giudiziario. Poi altro discorso invece è quello che ci insegnano queste intercettazioni telefoniche, ma anche questi verbali, perché voglio ricordare che le intercettazioni telefoniche sono una delle due gambe su cui cammina questa indagine, devo dire anche la più gracile, perché subito dopo, dopo 3-4 settimane che i telefoni andavano, Bisignani è riuscito a sapere, probabilmente da qualcuno dentro la Guardia di Finanza, questa è l'ipotesi dei pubblici ministeri, l'esistenza di questa indagine e ha cominciato a parlare in modo diverso, ha cominciato anche a depistare. Quindi le intercettazioni non sono il punto forte sono i verbali, perché i PM, quando si sono visti diciamo scoprire l'indagine in questo modo, hanno cominciato a chiamare tutti i soggetti chiamati in causa nelle altre intercettazioni, quelle per loro buone, e sono stati loro stessi a raccontare delle vicende che secondo me sono molto imbarazzanti. Ne dico una per tutte, noi del fatto l'abbiamo lanciata con un nostro scoop. Mauro Masi, direttore generale della RAI, ha tentato di licenziare in realtà il giornalista più famoso d'Italia, più seguito dagli italiani, cioè Michele Santoro, con una lettera scritta da un soggetto che non è il responsabile risorse umane né responsabile affari legali della prima azienda televisiva pubblica, ma da Luigi Bisignani. Ecco, questo è un esempio classico di quello che io dico quando dico che in pratica c'era un centro di potere esterno al potere ufficiale che gestiva nomine, appalti, promozioni e trasferimenti, e questa è una cosa secondo me molto grave. Ora, da questa inchiesta Napoli, poi c'è adesso un proliferare di tronconi derivati, perché non solo Napoli, Roma, anche Milano ha aperto inchieste sul sistema Bisignani, quindi sono tre procure, sei filoni di indagine, dagli appalti ai reati finanziari alla fuga di notizie. C'è chi pensa, l'Espresso, per chi volesse abbeverarsi a questo filone, che sia una nuova Mani Pulite, complessiva, generale e trasversale. C'è chi dall'altra parte dice, ma insomma, uno dei reati fondamentali che resta dopo il passaggio del GIP sulle richieste e le tesi dei PM è quello della violazione delle norme di riservatezza sulle notizie di indagine. Beh, certo, un po' paradossale che poi a sottoporre a questa mole di accuse sia poi un sistema giudiziario che fa della propalazione in violazione delle norme della riservatezza di indagine il suo sistema di accreditamento pubblico e per colpire coloro che indaga e tutti coloro che vengono intercettati insieme alla sua rete. E in effetti è un paradosso nel paradosso anche questo, anche a mio modestissimo giudizio. Ma resta che la vicenda, con il tono con cui oggi per esempio il direttore della Stampa scrive un editoriale in cui si chiede ma qual è il punto a cui può arrivare questo paradosso di un governo che ufficialmente è così, e poi tra loro i componenti di prima fila del governo, i ministri degli esteri, i ministri della pubblica istruzione, parlano del presidente del consiglio, dei suoi errori, di come è ridotto, di quello che fa o non fa, delle sue preferenze eccetera eccetera, nei termini in cui poi apprendiamo in questo modo, e ci parlano così da un anno. Ecco, dite voi, ma questo cosa c'entra con le indagini? E lo so, però è diventata l'unica modalità in cui in Italia ne parliamo e vediamo che ne parlano anche loro. Allora, Fabrizio Rondolino, dal suo punto di vista invece che cos'è questa vicenda della P4? Ma sugli aspetti penali non mi pronuncio, perché perché è un'inchiesta di Woodcock e dunque sicuramente finirà in una clamorosa e riconosciuta buffonata generale. Tutte le inchieste di Woodcock finiscono così, e quello, lui ha arrestato il re, insomma il re, il principe Vittorio Emanuele, Vallettopoli, ha fatto sfilare tutta Italia, no? E tutte le inchieste di Woodcock hanno questa caratteristica di avere, ci deve essere un complotto, un ordito, una trama, una associazione segreta, e i personaggi di questa associazione segreta devono essere molto famosi, perché altrimenti le telecamere non li riprendono e soprattutto non riprendono lui. Quindi dal punto di vista penale la considererei già conclusa. Dal punto di vista politico e del costume civile, invece no, è una specie di WikiLeaks italiana questa. L'aspetto anomalo è che appunto sia un magistrato in totale assenza di reati a rendere pubbliche 20.000 pagine di WikiLeaks, diciamo così. Ma le 20.000 pagine esistono, nel senso che effettivamente l'immagine che ne esce fuori è quella di un paese, diciamo così, debole. Però sai, il fatto che parlino male del Presidente del Consiglio, quella alla fine anche quella è una cosa normale, nel senso che per telefono si possono dire molte cose, e queste frasi ritagliate e pubblicate hanno invece evidente un significato politico molto forte. Cioè Woodcock, nel momento in cui fotocopia queste frasette, le distribuisce agli amici del Fatto e di Repubblica, perché vuole che quelle frasette lì finiscano negli occhielli e nei titoli, vuole raccontare agli italiani che Berlusconi è, come dice Di Pietro oggi, un uomo solo e tutti lo insultano, no? Quindi fa un'operazione di killeraggio psicologico, diciamo così, ad personam. Cioè lui vuole, Woodcock, con questa inchiesta, che ripeto di penale non ha nulla, con queste favole fantastiche sulla P4, vuole mostrare agli italiani che di Berlusconi tutti parlano male, persino le sue ex amanti o presunte tali, persino i suoi amici, persino le persone a lui più fedeli, eccetera, eccetera. E noi siamo di fronte ad uno spettacolo in cui non possiamo intervenire, perché non c'è, perché è un intoccabile, no? Il PM è un intoccabile, nel senso che le cose che lui fa e dice vengono appunto distribuite, volantinate, fotocopiate, radio e tele diffuse, e noi non possiamo far altro che riceverle. Il punto vero, però, è lo stesso punto che discutiamo da quasi 20 anni, è la debolezza strutturale, spaventosa della politica, che qui appare in tutti i modi, perché è debole una politica che si affida a Bisignani, evidentemente, è debole una politica che consente che esista un PM come Woodcock, è debole una politica che non è capace di distinguere tra le intercettazioni, di fare una legge sulle intercettazioni, che significa che le intercettazioni sono uno strumento fondamentale per i criminali, dopodiché è invece criminale l'uso che se ne fa per raccontare vicende private, eccetera, eccetera. La politica italiana, ma anche l'opposizione, quando dico la politica naturalmente intendo anzi la maggior ragione è l'opposizione, perché l'opposizione poi a sua volta, cioè le opposizioni hanno questo riflesso condizionato, siccome una cosa che danneggia quegli altri, no, allora io sto a vedere perché comunque qualche vantaggio ne trarrò. E idem dall'altra parte, quando Cascini, questo improbabile segretario, cos'è, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, ha aperto qua a Roma un'inchiesta su Morichini e gli affari con D'Alema, il cui significato politico anche lì è assolutamente evidente, perché D'Alema è l'unico politico di sinistra che dice parole sensate sulla giustizia in Italia, gli hanno subito aperto un'inchiesta su uno che lui conosce. Il giornale, sul quale pure io scrivo, è andato appresso ai giudici nel dire gli affari di D'Alema, no? Dunque la debolezza del sistema politico è tale per cui loro ci campano, loro, diciamo, questi pezzi di magistratura, di media, eccetera, e ci campano senza pagare mai dazio, perché troveranno sempre qualcuno, o un giornalista o un politico, convinto in questo modo di trarne vantaggio, no? E il risultato è un degrado progressivo. L'ultimissima cosa, non c'entra niente Tangentopoli, che pure si rivelò alla fine in buona parte una montagna, anche quella di panna montata, perlomeno dal punto di vista delle sentenze, aveva un modo di procedere, diciamo, un pochettino più rigoroso. E la Procura di Milano non è neanche paragonabile a un buffone come Woodcock, questo va detto per la storia, insomma. Allora, come vedete, le opinioni sono molto diverse. Io credo che dopo tanti anni bisognerebbe che qualcuno, un'associazione di cittadini, non voglio dire corpi dello Stato, perché ne ho le scatole piene da quando sono ragazzino di vedere corpi dello Stato in lotta tra di loro, contro di loro, al servizio di altri pezzi dello Stato, pro tempore, politici che credono di avere fedeltà nei corpi dello Stato, in realtà si fanno regolarmente raggirare da magari sottufficiali dei corpi dello Stato, che sono i più furbi di tutti a volte. Questa è la mia modestissima esperienza di osservatore di come funziona l'eterna lotta tra i topi e il formaggio nel nostro paese. Ma la mia proposta sarebbe che comitati di cittadini iniziassero ad auto-organizzarsi con dei device che vi posso garantire si possono trovare oggi nel mercato. Sono naturalmente in violazione delle leggi sulla privacy, però dovremmo iniziare a organizzare delle controprove, per così dire, per vedere se per esempio i rappresentanti delle correnti della magistratura, in occasione delle giunte della ANM e delle decisioni CSM sui servizi apicali, li dovremmo intercettare un po' per vedere se tra loro non trattano ed esprimono giudizi sui loro amanti, figli, sorelle, esattamente nella stessa modalità come fanno i politici nei governi prima delle situazioni degli incarichi apicali. Per esempio, io sarei molto curioso di farlo e di vedere poi pubblicate quelle robe. Immaginerebbe che cosa avremo finalmente la controprova se solo i magistrati sono immuni. Può essere che sia così, io non ci credo molto, da questa maniera degradata della politica italiana di affidare anche decisioni di grande scelta, di grande impatto, a persone che poi chiedono a un Bisignani, lo dico ridendo, io rido di Bisignani da quando sono giovane, infatti da lui ero considerato un cretino anche ai tempi del libero mercato. La mia questione del libero mercato in qualche misura aveva anche un senso per quella, agli occhi della Santanchè che raccoglieva la pubblicità di Feltre e così via. Ma detto tutto questo, quindi ridacchio un po', perché a me la cosa che fa ridere è che componenti del governo si facciano scrivere i comunicati da un Bisignani, e lo dico con la punta quasi di ammirazione per Bisignani, che nella vita è riuscito a spacciarsi con grande millanteria come un vero regista del potere. Questo la dice lunga su chi crede che il potere si gestisca così. Ma quello dei magistrati è davvero così immune da queste modalità di autodegrado, da mancanza di autostima, per così dire, che si legge nella crisi della politica descritta da Fabrizio Rondolino? Chi lo sa? Forse varrebbe la pena che ci auto-organizzassimo per vedere se chi davvero punta il ditino è immune dai vizi di questa politica così incapace di avere stima di se stessa, dal pensare che non si chiede a un ex giornalista radiato di illuminarsi sugli arcana imperi. Gli arcana imperi hanno bisogno di studio e non conoscenze. Ma può essere che io sia un illuso a pensarla così fin dai tempi della lotta alla DC, come si diceva nell'Italia in cui sono cresciuto. Perdonatemi se ridacchio, ma non riesco a fare a meno di considerare questa vicenda Bisignani e tutti gli addentellati serissimi come una conferma di qualche cosa che purtroppo mi induce a credere che c'è qualcosa che non funziona, non in una parte, nell'altra, ma un po' nell'Italia in quanto tale. Nell'Italia non per colpa vostra, di italiani che siete larghissimamente immuni da tutto questo e abbassate la schiena, faticate, lavorate e pensate a farla andare avanti, ma il problema è che la mancanza di autostima dei meccanismi decisionali significa che semplicemente che chi li riveste pro tempore non è all'altezza, perché solo così ci si riduce a chiedere i giudizi di Bisignani come se fosse Henry Kissinger. E prima di cominciare a sentire anche voi con qualche telefonata sul caso Bisignani, lasciate che, siccome è l'ultimo giorno della campagna che abbiamo condotto, per chiedervi un minuto di attenzione per un messaggio al numero 45502, ripeto 45502, donate 2 euro con un sms o chiamate anche da rete fissa, da tutti i gestori di telefonia mobile come da tutti i gestori di telefonia fissa, chiamate il 45502, 2 euro per una giusta causa, quella della causa di chi vi ha chiesto in questa settimana i vostri 2 euro e 2 minuti di attenzione per questo tentativo, quello messo in atto unendo la barca a vela, la disciplina, la bellezza del mare, ma la disciplina, il rigore di che cosa significa imparare ad andare per mare in barca, con l'idea di mettere in un progetto di questo tipo ragazzi che sono affidati nei comuni, negli enti pubblici, a un percorso di recupero, perché sono afflitti da situazioni di disagio, sono dei marginali. La barca a vela concepita come modalità per ridare voglia di vivere, ordine per vivere meglio, responsabilità di sé, senso del team con gli altri, idea di come si calcano le assi su un ponte che si adegua all'andare dei marosi, ma perché si ha l'idea anche di come si tiene la rotta, di come si sta con gli altri, di come si deve tornare in porto dopo aver preso la responsabilità di partire. Tutto questo nel progetto che leggete sulla pagina www.mattiperlavela.com matti.org e nella pagina Facebook anche Matti per la Vela Onlus, e gente straordinaria che si è impegnata in una modalità, secondo me, che mi fa pensare che così si può dare una mano in più dal basso, per sussidiarietà alle istituzioni che non sempre riescono in Italia a fare il meglio per i giovani marginali. Quindi ancora una volta ve lo chiedo, 45502, date 2 euro con un vostro sms, con una vostra chiamata da rete fissa a questo progetto, di cui vedrete poi gli aggiornamenti, gli sviluppi, gli approfondimenti sulla pagina www.mattiperlavela.org. Iniziamo con le telefonate, dopo, per così dire, le arringhe, quella Marco Lillo del Fatto è quella di Fabrizio Nero del Giornale, con due punti di vista contrapposti su Luigi Bisignani e sulla P4, e con Oscar Genio semplicemente in chiave di, oimè, un po' beffardo osservatore, oimè, così disincantato, perché è la politica che non ha senso di sé, quella che poi spinge spesso ad avere iniziative che danno fuori di sé il peggio di cui questo paese è capace una volta che si gratta la vernice e lo si vede dietro. Fausto a Torino, come la pensa? Buongiorno dottor Giannino, a lei e a tutti gli ascoltatori. Ma mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto poco prima della pubblicità, e quella è la riflessione, secondo me, che bisogna fare. Cioè, più che il singolo Bisignani, che è uno dei tanti corruttori, intralazzoni che ci sono in quest'Italia, nella storia di quest'Italia, è capire perché la società arriva a comportarsi così. Cioè, qual è il bisogno dell'uomo che fa sì che noi siamo i primi, come italiani, siamo i primi che critichiamo questo politico. Ma mi ricordo un bellissimo libro di Goldoni che parlava del macellaio che, mentre critica i politici, pesa la bistecca, ma al posto di pesarla su un foglio di carta ne metteva 10 per aumentare il peso. Quindi, secondo me, più che guardare la politica che condiziona la società, dovremmo cercare di vedere perché la società condiziona la politica, così come Berlusconi. Si parla tantissimo di Berlusconi, ma se Berlusconi è andato al potere è perché gli italiani hanno creduto più che nelle sue promesse, nei suoi programmi politici, hanno creduto nei suoi ideali. Ed è questo, secondo me, che bisogna andare a indagare in profondità. Insomma, lei dice Bisignani come un eterno personaggio di una commedia di Plauto. Assolutamente sì, è la sintesi di quelli che è l'italiano e di quella che è la natura. Poi, se vogliamo, secondo me bisogna tornare, non mi ricordo chi è che diceva, che abbiamo più bisogno di filosofi e poeti che di politici e di tecnici. Secondo me noi dobbiamo tornare a insegnare ai nostri figli che non va parcheggiata in doppia fila, e se parcheggi in doppia fila sicuramente non ti deve arrabbiare col vigile. Va bene, Fausto, io credo anche invece che ci sia un'etica nei numeri, e penso che li frequentiamo troppo pochi, questo spieghi poi perché preferiamo le chiacchiere. Comunque, sentiamo Marco da Milano. Marco, prego. Sì, mi sente? Sì, sì, prego, dica. Ecco, sì, volevo solo fare una precisazione, dire che in realtà non sono i PM che danno le intercettazioni ai giornali, sono gli avvocati. Quindi... Lei ha raggiunto questa conclusione, che è una conclusione così secca e unilaterale, di tanti anni di violazioni del segreto, cioè i cancellieri non c'entrano, non c'è mai nessuno per colpo che faccia parte dell'ordine giudiziario, secondo lei? Ma secondo me comunque ci sono delle regole per cui i PM non possono dare le intercettazioni direttamente ai giornalisti, sono sempre gli avvocati che fanno queste operazioni. Naturalmente gli avvocati significa che quando poi gli atti sono messi a disposizione delle parti, ecco. Non mi dica Marco che noi in tanti anni non abbiamo mai assistito all'esplodere di bombe atomiche pubbliche perché c'era invece la palese violazione delle norme sul segreto. Mi toccherebbe. Sì, ci può essere stata. Appunto, voglio dire. Posso chiedere a Marco Lillo, dopo che ci ha spiegato all'inizio la fondatezza, ciò che rimane della fondatezza dopo il giudizio del GIP dell'indagine. In realtà dovesse dare un giudizio da cittadino giornalista, in questo caso non solo da attento osservatore dell'indagine e attento ai fatti giudiziari, da cittadino giornalista, questa roba qui ha a che vedere col mondo Berlusconi in quanto Berlusconi è questa roba qui e dietro ci sono millantatori autopotenti come Bisignani, è un problema italiano, è un problema non degli italiani ma di chi comanda in Italia, perché comanda grazie a questi sistemi e grazie anche ai millantatori autopotenti, oppure no? Come la vedi tu? Allora, due notazioni. La prima, volevo dare ragione all'ascoltatore che ha chiamato, volevo intervenire per dire la stessa cosa. Sulla base di un'argomentazione logica, è chiaro che le fonti sono segrete, quindi non riveleremo mai chi ce l'ha dalle carte. Se le avessi avute da un avvocato queste carte che stiamo pubblicando, non lo direi evidentemente. Però è solo una questione logica. Come diceva l'ascoltatore, il pubblico ministero che consegna le carte a un giornalista fa un reato molto grave che prevede 5 anni di galera. L'avvocato che riceve queste carte per difendere il suo assistito le deve avere, quindi non fa nessun reato. Cioè, basta questo secondo me per spiegare, cioè, per quanto allora io questo lo dico anche a beneficio di Gondolino, che invece ha dato per scontato che Woodcock dà le carte, lo dico perché magari con una correzione gli eviterebbe una querela, lo dico per il suo bene, ma è proprio una questione logica, di pura logica, cioè per quanto nell'immaginario collettivo un PM come Woodcock sia visto come uno che tiene a stare sui giornali. Lì lo si aspetta un secondo però, perché sennò qua, lì lo aspetta un secondo, aspetta un secondo, ma l'argomentazione logica, voglio dire, se pensiamo alla storia, Lillo, non ti mettere nella parte di chi non ti fai obiettare civilmente, perché ti dico semplicemente, se pensiamo alla storia italiana, l'esplosione sul Corriere della Sera nel 1994 della notizia di Berlusconi, indagato inequivocabilmente veniva dalla Procura di Milano, fu il Corriere della Sera a farlo, non era certo né un avvocato di parte, eccetera eccetera, cioè grandi rivolgimenti della storia italiana che vengono dalla magistratura, vengono dai signori magistrati, punto. Ma come non è vero? Lo dico per evitarti anche te una querela, non è così. Va bene, Marco, alle querele mie ci penso io. Tu non parli a nome della giustizia italiana. Non è stato mai dimostrato. E non è mai stato dimostrato, te credo, si giudicano tra loro. E ti credo, Marco. Non è vero, non si giudicano tra loro i signori magistrati. Ci sono anche degli elementi per sostenere che sia stato invece che sia uscito dall'altra parte, dalla parte degli avvocati, perché se vai a rileggerti gli articoli più seri fatti su quella fuga di notizie, scoprirai che del capo di imputazione la parte che uscì era quella comunicata agli avvocati del Premier. E devo dire che dal punto di vista mediatico è anche una mossa intelligente farla uscire sul Corriere della Sera e quindi dire: ah, i magistrati fanno uscire la notizia quando c'è il vertice a Napoli, per cui io sono una vittima. Quindi attenzione a quello che si dice. Io lo dico, ripeto, nel vostro interesse non è vero che è uscita la notizia, che è stato dimostrato quantomeno che è uscita la notizia adesso da Woodcock, non è vero che è stato dimostrato che la notizia è uscita dalla Procura di Milano, lo dico a beneficio degli ascoltatori e anche per l'onore della verità. Bene, io ti dico che non è vero, avendo parlato più volte con Paolo Mieli, che l'ha preso dall'avvocato di Berlusconi. Sono certo di quello che dico e non credo di sfidare alcuna querela a Marco Lillo, lo dico sorridendo, guarda. È una notizia oggi la pubblico sul fatto. Ma Paolo dai, Mieli ha detto che ha avuto, no, io ho detto che avendo più volte parlato la querela te la becchi tu se dici una cosa diversa da quello che ho detto. Ho detto che tutte le volte che abbiamo appreso qualche cosa di quella vicenda italiana abbiamo appreso qualche cosa che non ci dice che è stato l'avvocato di Berlusconi, perdona, te lo dico sorridendo, ma è così. Comunque detto questo ti avevo chiesto un discorso complesso, però se fosse possibile sarebbe interessante per gli ascoltatori spiegare come funziona realmente. No, ma questo certo, ma questo hai ragione, anch'io credo che il più delle volte venga dalle parti, cioè venga, voglio dire, dagli avvocati, ma questo non c'è dubbio. Io, se permetti, forse ne so più di te, ti dico che non è così. Ho appena detto che credo anch'io che il più delle volte venga dagli avvocati delle parti. Sei tanto accecato che hai detto il contrario. Ho detto... no, da quelle parti avevo capito. Scusami un secondo, Marco. Scusa. Sei un po' iperreattivo. No, ti sente male il telefono. No, ma detto questo, come cittadino giornalista invece, come la pensi? La mia domanda... Io posso dire, secondo me, una cosa che è importante, è questa. Allora, dal punto di vista politico, quindi per un attimo non faccio il cronista giudiziario, ma faccio un'analisi politica di quello che esce da queste intercettazioni. Secondo me quello che emerge è un sistema di potere, un subsistema interno al sistema berlusconiano, cioè Luigi Bisignani non va svalutato a un piccolo lombista, un faccendiere, un trallazione, no, è qualcosa di diverso, era il punto di riferimento di un sistema che faceva riferimento a Gianni Letta e che all'interno del potere berlusconiano si era ritagliato una linea politica diversa da quella di Berlusconi. È evidente che le intercettazioni coprono il periodo, diciamo, della lotta più dura e mediatica e politica contro Gianfranco Fini, la casa di Monte Carlo, la campagna del giornale, eccetera, ed è evidente che c'è tutta una parte del PDL incarnata da Gianni Letta, ma che ha poi tutta una serie di epigoni in Franco Frattini, Maria Stella Gelmini, Stefania Prestigiacomo, e che sono tutti quanti amici di Bignani, che li sente tutti i giorni e che hanno addirittura a un certo punto, per esempio, acquisito mediante appunto dei loro amici delle quote all'interno di un'agenzia di stampa per supportare questa linea politica. La linea politica qual è? È quella di non rompere con gli XN che fanno riferimento a Fini, quindi Urso, quindi Viespoli, quindi c'è tutto questo mondo che in qualche modo preferisce l'equilibrio. E allora si può dire magari che preferisce l'equilibrio perché, mi metto nei panni di Bignani, è più facile fare affari con un potere costante. Con forse, un potere stabile, no? Questo è un aspetto. Oppure preferisce l'equilibrio per il bene del paese, possiamo anche dire. Non voglio... Tendi a credere che Luigi Bignani sia uno che pensa al bene del paese e non a mettere gli amici degli amici. No, io adesso, per essere garantista, devo dire, davo le due opzioni. No, ho capito. Dire, è sicuro questo, che Luigi Bignani rappresenta quindi l'uomo di Gianni Letta che coagula intorno a una linea politica più moderata e più unitaria all'interno del centrodestra, tutti i ministri, diciamo, che non fanno riferimento all'ala, diciamo così, possiamo dire, più oltranzista, che fa riferimento a Berlusconi in quel momento, alla Santanchè e ad altri. Primo punto. La seconda cosa è che Bisignani è un uomo, secondo me, in ottimi rapporti invece, come era tanti anni fa, con i piduisti, non a caso gli era scritto la P2, con il mondo atlantico. È evidente che è un uomo che ha rapporti con soggetti come Enzo De Chiara, che ricordiamolo è un importante lobbista americano, rappresentante del Partito Repubblicano in Italia, e questo è un altro aspetto, quindi che fa in qualche modo, che coincide con quello che emergeva dai cable di Wikileaks, dove era chiaro che gli americani puntavano su Gianni Letta come loro uomo e su Franco Frattini. Gli americani, dici tu? Ma, sì, vabbè. Gli americani, nei colloqui diciamo che sono rivelati nei cable di Wikileaks. Ma Enzo De Chiara non è mica l'America, per chi lo conosce, è un altro di questi abili venditori di fum e chiacchiere. Io non lo so, io ho un'opinione da osservatore. Dici tu che ne sai di più, figlio mio, a Palazzo Chigi a 20 anni ci stavo nell'81-82, non tu, quindi detto questo, cioè, c'è un po' di esperienza di vita italiana e non per questo io tacito la gente dicendo che ne so di più, quindi diciamo che per come la vedo io, altro che un pezzo di Gianni Letta, la mia opinione è che sono autopezzi di millanteria, conoscenze e debolezza di grandi aziende pubbliche, private, italiane, manager, politici, che consentono a personaggi svelti di testa e con molte relazioni, una grande agenda, di piazzare, mediare, interpretare, scrivere addirittura comunicati di ministri. È molto divertente vedere questo, però la mia impressione è che non si tratti di un pezzo di Letta e tantomeno di un pezzo di ambiente atlantico, si tratta di gente abile a costruirsi questa maniera, che in Italia è più paradossalmente patologica che altrove, in cui le decisioni non le prende chi le deve prendere, un po' perché non sa che pesci prendere, perché non ha studiato abbastanza, ed è per questo che diventa più facilmente vittima di praticoni che invece le cose le conoscono da di dentro da molti decenni e conoscono i direttori generali, conoscono i vice direttori generali, conoscono gli ufficiali delle armi, dell'esercito, dei diversi servizi, e li conoscono meglio di loro, che sono così presi da farsi telefonate come quelle che leggiamo intercettate, che poi smarriscono il fatto fondamentale, che per comandare bisogna sapere, e bisogna sapere che chi sa e chi viene nominato per sapere deve rispondere solo a chi sa più in alto e non a chi sta in basso o c'ha i telefoni e le agende. Questa è la mia opinione, paradossalmente molto diversa da quella di Marco Lillo. Allora, Rino Formica, ex ministro delle finanze e lavoro al Partito Socialista, grande testa fina, devo dire la verità, le chiedo, che impressione le fa la lettura che viene proposta di questa vicenda P4, Luigi Bisignani? No, intanto i paragoni con il passato sono comodi, agevoli, ma molte volte sono depistanti. La P2, quando si fa un riferimento al passato, alla P2, la P2 sicuramente era una organizzazione che aveva un doppio fine, o anche qualcuno in più. Il primo fine era quello di avere una rappresentanza di forze internazionali importanti che avevano un interesse al contenere la dialettica democratica nel paese e di condizionarla se la democrazia italiana avesse deviato dalle regole di una alleanza e di uno schieramento nella divisione del mondo. Poi naturalmente c'era tutta un'altra parte che era di affarismo, l'altra parte che era di mutua assistenza, di protezione, di varie aree, eccetera, ma insomma c'erano pezzi importanti nel mondo che contavano e che avevano un interesse a tenere sotto controllo, in un mondo schierato in due, anche la vita democratica del paese. Poi naturalmente questo si faceva in termini o casarecci, oppure in, con la logica di cortile, o con raffinatezza ed abilità. C'era naturalmente chi aveva scritto il piano della rinascita democratica, che era una mente più fine del materassaio di Arezzo. Frosinone, di Arezzo, di Frosinone, dove aveva la Permaflex. Ma insomma, il, però il, tutto questo è caduto con la caduta del muro di Berlino. E adesso questa vicenda? Oh, questa vicenda mi ricorda un po' da vicino, se proprio vogliamo fare dei paragoni, con la caduta dell'impianto dei sistemi di relazioni che avevano tutti i corrispondenti dell'Est o dell'Ovest nei vari paesi d'Europa. Cioè, dopo la caduta del muro di Berlino, quella rete di relazione si è riconvertita in un'attività non più politica, perché mancava la grande protezione superiore internazionale, ma in un sistema di relazioni molto incentrata su un'attività di carattere di affaristico. Allora, paradossalmente, io devo dirvi che mi ritrovo integralmente in questa trasformazione che smarrisce un senso di sé, magari deviato della storia precedente, e che però approda al più vile, non per questo non bisogna riconoscerlo come forza della storia, ma al più vile affarismo, millanteria, debolezza della politica. Secondo me Rino Formica ha profondamente ragione, mentre invece chi fa avvampare i fantasmi del lobbismo solo berlusconiano, di una politica che solo da una parte non ha il senso di sé perché è ridotta a pura autovigilanza, incapacità di autovigilanza di un interesse privato, racconta solo un pezzo di verità, perché è al servizio di una visione per il quale, come sempre, il giustizialismo poi servirebbe invece a far saltare la virtù, che starebbe solo dall'altra parte. Io a questo non ci credo. Dopo decenni di vita politica italiana, credo che sia una politica nella quale il senso istituzionale, travolto da una storia che si è inabissata per colpi di maglio, mani pulite e la storia internazionale, non riesce a trovare gente capace di distinguere il senso di sé dagli affari e gli amici. Il senso di sé significa: tu non mi telefoni con neanche la più lontana presunzione di dirmi chi metto e cosa dico nel mio comunicato, perché vengo eletto per questo, e se non lo so, di sicuro non chiedo a te, ma chiedo a gente che ha visibilità pubblica. Questo è il motivo perché io sono stato sempre alla larga in tanti decenni da Luigi Bisignani, da quel sistema, e in piccolo, se ho pagato un prezzo e non ho una direzione, ne sono felice. Lo dico ai tanti Marco Lillo che credono invece, no, che il mondo sia diviso in due, ci sia la virtù dei magistrati da una parte e dall'altra chi non la riconosce vuol dire che è un servo di Berlusconi. Non è così, la storia è un po' più complessa e Rino Formica, secondo me, ha ragione. Detto questo, appuntamento lunedì in linea al giornale radio. Se ho un motivo di dolermi è quello che l'ho fatto parlare troppo poco, e me ne scuso con lui. Appuntamento a lunedì.